Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo chiaramente dell'ILVA, la notizia di pochi minuti fa che i lavoratori hanno occupato la sala del municipio a Genova e chiedevano di entrare per organizzarsi per la notte. Parleremo della vicenda nel dettaglio, così come già avevano occupato il cortile del municipio di Genova per protestare contro l'accordo di programma e la retribuzione. Sono 3.510 gli esuberi temporanei, infatti, indicati dall'ILVA ai sindacati durante l'incontro che c'è stato a Taranto, che si è tenuto l'incontro nello stabilimento di Taranto, ma riguardava tutta l'ILVA. Ci sono 1.613 nell'area laminazione e tubifici, 975 nell'area servizi, staff e manutenzione, 831 nell'area fusoria. Quelli che hanno occupato chiaramente il municipio di Genova sono i lavoratori dell'ILVA di Genova, e parleremo della vicenda. Parleremo anche del mercato dell'energia nel doppio aspetto, che in parte potrebbe riguardare anche l'ILVA. Mi riferisco alle ipotesi, dopo la telefonata tra il Premier Renzi e Vladimir Putin, dell'ipotesi che l'Italia possa entrare nella partita del raddoppio del gasdotto Nord Stream. Cosa è successo? In seguito alle sanzioni e alle controsanzioni russe è stato abolito il progetto del South Stream. Ci devono essere due un raddoppio, quello nord, e un nuovo gasdotto, quello appunto del sud, che passava per la Turchia e arrivava in Italia. La Russia ha bloccato i lavori del South Stream, devo dire, non con Leni, che era uno dei capofili del progetto, che non si è particolarmente lamentata, ha chiesto un risarcimento. Nella telefonata tra Renzi e Putin, da quello che è emerso, Renzi avrebbe chiesto anche che l'Italia potesse rientrare nel raddoppio del gasdotto, quello del nord, dopo aver obiettato a livello comunitario a Bruxelles, sempre Renzi, che c'era uno sbilanciamento, le sanzioni contro la Russia riguardano tutti i paesi europei, però poi vanno a penalizzare più alcuni paesi che altri. Questo era stato il principio. E si ipotizza che appunto l'Italia possa entrare nel raddoppio della parte nord, anche se oggi il numero uno dell'ENI, Claudio Descalzi, ha detto: non abbiamo mai considerato, non è considerato e non considereremmo la partecipazione nel Nord Stream. Non c'è nulla all'ordine del giorno, né come cessione di quote di Saipem, né di un ingresso nel Nord Stream. Così ha ribadito Descalzi. Che ha escluso per il futuro prossimo anche cessioni di quote Saipem, soprattutto a questi prezzi, ha aggiunto questo in merito alla possibile vendita di una partecipazione della Saipem, della partecipazione che Eni ha in Saipem, che sarebbe stata girata parte di questa partecipazione alla russa Rosneft. Comunque parleremo di questo, ma parleremo anche delle famose perforazioni, nel senso che da questo punto di vista ci sono anche dichiarazioni del ministro Guidi. Domani Emiliano sarà il ospite con Giovanni Minoli, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, a Mix24, il tema delle perforazioni nelle acque pugliesi. Anche di questo parleremo. E quindi l'ILVA, perché dicevo che potrebbe rientrare eventualmente, ma adesso mi sembra che vi sia una frenata, perché nella produzione dell'ILVA ci sono anche, diciamo così, i tubi, e quindi poteva esserci una commessa anche per l'ILVA se l'Italia avesse partecipato al raddoppio del gasdotto del nord, chiamiamolo così. Questo per quello che riguarda i temi legati all'energia. Per quello che riguarda invece i temi bancari, oggi non ci occuperemo dell'inchiesta in corso, soprattutto su Polare Etruria, ma di quello che sta capitando a due titoli, in particolare al Monte dei Paschi di Siena, che è arrivato a sta perdendo adesso il 9,60%, è sceso per la prima volta sotto un euro per azione a 94 centesimi, ed è la banca più sotto pressione in questo momento, assieme anche una delle banche più sotto pressione, perché segnaliamo anche la Cassa di Risparmio di Genova. La Cassa di Risparmio di Genova perde anche più del Monte dei Paschi, pur non essendo nell'S&P MIB, perde il 14,4% in questo momento. Sono state ambedue sospese per eccesso di ribasso, e cercheremo di capire su che cosa stia ragionando il mercato e il perché di questi cali apparentemente improvvisi. Visto che parliamo di borsa, segnalo che nonostante il bruttissimo inizio di settimana in Asia e nel caso specifico in Cina, di nuovo cali molto molto forti sia a Shanghai che a Shenzhen, meno 5% Shanghai, meno 6% Shenzhen, non c'è stato in Europa un effetto Cina questa volta. C'è stato Hong Kong che ha perso il 2,80%, parzialmente a Tokyo che ha perso lo 0,40%, ma in questo momento Milano perde lo 0,13%, Parigi lo 0,16%, Francoforte è invariata, Londra meno 0,40%, anch'essa l'America è invariata, quindi nessun effetto almeno oggi sulle borse europee. L'euro sul dollaro a quota 1,08, quindi fermo a questi livelli. C'è stato invece un brutto inizio settimana per la borsa russa, dove l'indice è calato sotto i 1700 punti, che la prima volta dall'ottobre del 2015, perde superiori al 3%, e il rublo che si è ulteriormente deprezzato nei confronti del dollaro, vale praticamente 76,4 rubli un dollaro, e anche nei confronti dell'euro un euro vale 83,4 rubli. Siamo vicini ai massimi toccati dall'euro nel 2014, dicembre del 2014. 349-238-6666 per i vostri SMS e poi e per WhatsApp la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ci occuperemo anche del salone di Detroit, dove oggi ha parlato Marchionne, e Barack Obama ha citato, l'avete letto sui giornali, anche l'industria dell'auto americana che è tornata, l'America può fare qualunque cosa, ha affermato nel suo discorso settimanale il presidente americano. Rapidamente adesso le altre notizie in breve. Sì, vedo molti messaggi sul tema Nord Stream, Eni, Ilva, perforazione. Adesso vi arriviamo, dedichiamo la prima parte del programma cercando di tenere assieme tre vicende che sono molto diverse tra di loro, hanno come comune denominatore l'energia e alcuni anche punti di contatto. Penso all'Ilva a Taranto, anche se l'occupazione a Genova. E comunque quanto deciso dal governatore, le dichiarazioni del governatore Emiliano, penso appunto anche al ruolo che l'Ilva avrebbe potuto avere o potrebbe avere se l'Italia entrasse nella partita del Nord Stream. Comunque andiamo con calma. Faccio notare, visto che parliamo di petrolio, che anche oggi è calato del 2,5% a $32,3 al barile, ma soprattutto sono tutti i prezzi delle materie prime a seguire, come spesso avviene anche quello del petrolio. Il rame è ai minimi da 6 anni, questo perché non tanto perché segue il petrolio in senso stretto, ma perché il rallentamento della Cina, che era la grande idrovora di materie prime a livello mondiale, porta una diminuzione dei prezzi di tutte le materie prime. Il rame appunto è ai minimi da 6 anni a questa parte, sotto i $4,400 la tonnellata, e poi anche il nickel va giù del 3,7%, l'alluminio e lo zinco calano, e non è un caso ovviamente che nelle varie borse i colossi minerari, a partire da BHP Billiton, che è il colosso mondiale, siano tutti in calo. Nel caso di BHP Billiton siamo ai minimi da 10 anni, Rio Tinto, altro colosso mondiale delle materie prime, è sceso ai minimi da oltre 6 anni. poi allora, è un danno per chi vende materie prime, è un vantaggio, diciamo, per chi queste materie prime come noi le importa. Vedo ancora molti messaggi di chi dice: ma perché non si nota un calo alla, ai prezzi alla pompa? Abbiamo spiegato che obiettivamente, essendo 70% IVA e accise, il calo è per alcuni versi meno significativo. Ne abbiamo parlato anche, anche venerdì, rispetto a quello che uno potrebbe attendersi. Sul fronte però dei paesi in difficoltà, segnalo che il Brasile, che assieme alla Cina è l'altra grande economia andata in difficoltà, ma mentre la Cina ha solo avuto un rallentamento, per quanto significativo, il Brasile è entrato in una recessione pesante. Tant'è che oggi sono peggiorate ulteriormente le prospettive per il 2016. Già il Brasile ha fatto recessione nel 2015. La banca centrale brasiliana prevede un PIL in calo del 3%, sarebbe la 14ª proiezione negativa consecutiva. Solo nel 2017, ci si attende un parziale recupero con una crescita leggera, ma insomma intorno allo 0,8%. Venendo invece all'Europa, per quello che riguarda l'aspetto fiscale, ci siamo occupati più volte delle multinazionali che non sono necessariamente europee, sono anche multinazionali americane, ma insomma le multinazionali che usano questo trucchetto per pagare meno tasse, mettono la sede legale nei paesi dove il fisco è più vantaggioso, anche se i fatturati li fanno in altri paesi, però risultano sempre come controllate. E insomma la casa madre paga le tasse laddove più è vantaggioso, anche se non vengono sviluppati degli affari. Allora, c'è una nuova stangata dell'antitrust europeo contro questa abitudine delle multinazionali. Questa volta è finita nel mirino il Belgio. Ci fu già il primo a finire nel mirino dell'Unione Europea, se ricordate bene, fu Lussemburgo. Adesso il Belgio, per il suo schema di incentivi applicato a 35 aziende, è considerato illegale. Bruxelles ha chiesto quindi al governo belga, sarebbe la battuta è facile, Bruxelles ha chiesto a Bruxelles di recuperare da queste 35 imprese 700 milioni di euro di tasse, non dico evase, ma sicuramente eluse. E su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, quelli trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. C'è un nuovo capitolo nell'offensiva avviata dall'Unione Europea contro i paradisi fiscali interni, cioè quegli stati dell'Unione che hanno utilizzato, che utilizzano le norme fiscali per attrarre imprese estere garantendo loro tasse molto basse. A finire nel mirino ora è il Belgio per un regime fiscale che esonera dalla tassazione una parte dei profitti delle multinazionali. Si tratta di un sistema che la Commissione Europea giudica incompatibile e pretende che il governo belga recuperi 700 milioni di euro di tasse non pagate da 35 multinazionali. La mossa della Commissione in realtà si inserisce in un quadro molto ampio di indagini sui vantaggi fiscali concessi alle multinazionali. A ottobre, per esempio, la Commissione ha imposto all'Olanda di recuperare da Starbucks una somma tra i 20 e i 30 milioni di euro per benefici fiscali non dovuti. Lo stesso dovrà fare il Lussemburgo con una società del gruppo Fiat. Accertamenti sono in corso anche nei confronti dell'Irlanda per i vantaggi conseguiti da Apple, mentre sempre il Lussemburgo, che ricordiamolo è il paese di cui è stato premier per quasi 20 anni l'attuale presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, è accusato di aver favorito anche Amazon e McDonald's, e anche qui si attende presto una decisione. Insomma, la partita è ancora in corso e la lotta per far pagare alle multinazionali le giuste tasse sarà ancora lunga. Certamente è positivo che la Commissione UE si stia muovendo e sembri davvero determinata nel voler mettere fine a questa forma di concorrenza sleale tra gli stati. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. come vedete, dai, insomma, dai 100 secondi di Salvatore Padula, già lo anticipavamo, molte di queste multinazionali sono per esempio americane, Starbucks, Apple. Quanto riferimento a Juncker, bene ha fatto Salvatore Padula, sì, già noi polemizziamo, è possibile che Juncker in tutti quegli anni non avesse avuto nessun ruolo nel rendere Lussemburgo terra di elezione per la sede dove si pagano le tasse per queste multinazionali. L'accusa è bella pesante che proprio ci fosse un invito alle multinazionali a trasferirsi lì in cambio agevolazioni fiscali. No, visto che Bruxelles è così attenta agli aiuti di Stato anche nei casi delle banche, delle quattro banche italiane, poi su Juncker, a mio avviso, insomma, dai, la vera critica in questo momento è che fine ha fatto il piano Juncker, perché noi già a suo tempo dicevamo che un piano con quei soldi che non erano freschi, per cui per ogni miliardo speso ne avrebbe sviluppati, se non ricordo male, 30, circa 20, per cui metteva 10 miliardi, si attendeva 300 miliardi di euro di investimenti di privati, ci sembrava un po' fuffa, se si può dire. Vedo che, insomma, il piano Juncker manca l'appello, e prendiamo atto. Alcuni di voi mi chiedono di generali. Allora, generali non c'entra, e di Ferrari. Ferrari, ne parliamo più avanti, perde il 4,24%. Qui pesa ancora la Cina, ma non solo. Ne parliamo più avanti perché da Detroit Marchionne ha anche anticipato che la produzione di Ferrari potrebbe superare le 9.000 auto. Su generali non ci sono notizie specifiche, meno 2,40% in questo momento, se non le indiscrezioni riprese oggi anche dal quotidiano svizzero Sonntagszeitung, secondo cui il numero uno di generali, Mario Greco, potrebbe ritornare nel gruppo Zurich, e Zurich sarà un caso, ma guadagnava oltre il 2% a Zurigo. Secondo alcuni molti operatori, insomma, se Greco dovesse andarsene da generali, questa sarebbe una notizia negativa per il cosiddetto leone triestino. Da qui l'unica ipotesi per cui si vada a vendere il titolo, meno 2,30%. Anche le dichiarazioni di Marchionne, lo dico a chi ci sta scrivendo, le affronteremo dopo. Un'ultima notizia riguarda la nostra manovra di stabilità, perché su questo ci sono parecchie perplessità europee. Avete letto i giornali, immagino, del fine settimana sulla flessibilità sul deficit, ma oggi Bruxelles non è intervenuta su questa, è intervenuta con il commissario alla concorrenza Margrethe Vestager sulla creazione di una bad bank, dove far confluire parte o buona parte delle sofferenze. Sono oltre 200 miliardi i prestiti che le banche italiane hanno dato, che non rivedranno indietro. La creazione di una bad bank sta all'Italia come decisione, sottolinea la Vestager. La commissione ha solo indicato le diverse strade, sia usando aiuti di Stato sia evitandoli. Molti stati, ha aggiunto, hanno messo in piedi meccanismi di gestione dei crediti deteriorati, abbiamo molta esperienza su come farlo, abbiamo già condiviso le informazioni con le autorità italiane. Nel frattempo, domani, Adusbef, Federconsumatori e Comitato Vittime del Salva Banche organizzeranno davanti alla Consub un presidio di proteste. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina è per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Adesso partiamo con il primo tema, con i primi tre temi che si tengono. Chiaramente, per quello che può valere, anche da parte nostra, un omaggio al Duca Bianco. Allora, telefonata, sì, fa un po' impressione ascoltare David Bowie oggi. Allora, telefonata tra Vladimir Putin e Matteo Renzi, dopodiché la telefonata di venerdì scorso e le indiscrezioni. Sul Nord Stream, cosa riguardano le indiscrezioni? Il fatto che Renzi avrebbe chiesto a Putin di far entrare l'Italia nella partita per il raddoppio del gasdotto del Nord, visto che la Russia, come ritorsione sulle sanzioni, ha bloccato il South Stream. E Renzi già a Bruxelles aveva detto, insomma, qua sono due pesi, due misure, tutti fanno le sanzioni contro la Russia, però poi alcuni ne pagano più le conseguenze, come l'Italia, rispetto a altri che invece vanno a raddoppiare il gasdotto. Allora, la Commissione Europea aveva già sollevato obiezioni perché si trattava di un'infrastruttura prevalentemente tedesca, più vicina alla tipologia dell'impresa esclusiva che al business pan europeo. È vero che c'è una presenza dentro di minoritari di austriaci e olandesi, ma che non sarebbe sufficiente a superare tale obiezione. La convinzione russa è quindi che se entrassero anche gli italiani, il gasdotto avrebbe una natura multilaterale e questo ostacolo tecnico sarebbe superato. Ricordo appunto che lo scorso 17 dicembre proprio Renzi nel Consiglio europeo aveva chiesto alla Commissione di esprimere un parere sulla uniformità alle norme europee riguardo alla partecipazione tedesca al Nord Stream. Tre le imprese che potrebbero entrare che sono quelle che operano sui grandi gasdotti che provengono dalla Siberia e da cui arriva il 30% del gas utile all'Europa. A nessuno sfugge che il raddoppio del Nord Stream ridurrebbe di molto anche il peso dell'Ucraina, da cui transita uno dei gasdotti principali. Le imprese italiane sono Saipem, Eni ed Ilva. Ilva produce tubi per gasdotti. Ora, per quello che riguarda Saipem, Descalzi oggi ha gelato un po' tutti, ha detto non abbiamo mai, che Descalzi è il numero uno di Eni e controlla Saipem, non abbiamo mai considerato e non considereremo la partecipazione in Nord Stream. Celestina Dominelli del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori. Celestina, io ho detto ha gelato un po' tutti, ma cosa ha messo le mani avanti, Descalzi? Perché insomma le indiscrezioni erano uscite nel fine settimana e non erano mai state smentite da Palazzo Chigi che si fosse parlato insomma anche del Nord Stream. Ma diciamo sostanzialmente che come dire, ha sostanzialmente precisato quella che è un po' la posizione di Eni, che di fatto, a giudicare anche da quello che era uscito nel fine settimana, era un pochino emersa nei vari resoconti successivi alla telefonata intercorsa tra il Premier Renzi e Vladimir Putin. Sostanzialmente Descalzi ha sottolineato che un eventuale coinvolgimento di Eni, per come era venuto fuori, cioè appunto dai rumor, cioè la possibilità di un ingresso nel consorzio che fa capo al Nord Stream 2, quindi alla possibilità di un raddoppio del gasdotto esistente, non è al momento sul tavolo, anche perché lui ha spiegato il business di Eni per come è stato diciamo attualmente messo in campo e per come lui ha deciso di imprimere una direzione all'azienda, vede l'Eni impegnata soprattutto nel occuparsi del gas di produzione propria ed eventualmente nel costruire delle strutture di trasporto di gas che Eni produce diciamo da sola, quindi un eventuale coinvolgimento in un'infrastruttura che fa capo ad altri non viene considerata diciamo vantaggiosa e non viene considerata neanche funzionale al business. Tra l'altro lo ricorderete, l'Eni era già stata diciamo come dire tirata dentro il progetto che faceva capo invece alla costruzione del South Stream, l'altro gasdotto che poi è finito insabbiato proprio per le resistenze dell'Unione Europea. Anche in quel caso di fatto l'Eni ha deciso di cedere le sue quote proprio perché l'operazione è stata diciamo considerata non più strategica, non solo perché il progetto alla fine è risultato non fattibile ed è stato affossato, ma anche per le incertezze legate ai costi, perché poi i problemi principali di operazioni di questo tipo è che certo, una volta che entri, come dire, le previsioni di spesa vanno a crescere. Avevo precisato che nessuno ha pianto diciamo così a Leni quando si è interrotto il South Stream, per non dire che fossero quasi contenti. E adesso aspettano solo la parte risarcitoria. E dopo il meteo vorrei però capire con te il tema, al di là dell'Eni in questo caso, il tema europeo, perché se ho ben capito, ma vorrei confermare da te, l'ingresso dell'Italia renderebbe più facile la realizzazione dell'impresa che non è che un business pan europeo, per cui avrebbe una natura multilaterale. e potrebbe essere più fattibile e quindi potrebbe essere anche un elemento di vantaggio per la Germania stessa. Ma vorrei la tua risposta dopo il meteo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Come capite, oggi tutta la, diciamo, le basi musicali del programma saranno dedicate a David Bowie, e ci mancherebbe. Allora, stavo chiedendo prima del meteo alla collega del Sole 24 Ore, chiaramente, se mi riferisco a Celestina Dominelli, se l'ingresso dell'Italia, al di là di quello che vuole fare l'ENI, potrebbe agevolare rendendo il Nord Stream, dando al Nord Stream una natura multilaterale e non solo nazionale? Beh, la risposta non è semplice, perché innanzitutto quello che tu riportavi è la posizione della Russia, che ovviamente ha tutto l'interesse in questo momento a tirare l'acqua dal suo mulino, perché si è già vista affossare un progetto su cui Putin peraltro credeva e puntava molto, che era quello del South Stream, e quindi ha ovviamente timore che anche questo eventuale raddoppio del Nord Stream possa cadere sotto le stesse obiezioni. Mi dico che è difficile rispondere, perché giusto oggi la commissaria per la concorrenza, Margaret Vestager, interpellata sul Nord Stream e sulle posizioni che sono emerse, sostanzialmente dice la questione è estremamente complicata, quindi ci sono una serie di valutazioni da fare, è un dossier molto complesso dal punto di vista della concorrenza, quindi è evidente che la risposta è ancora molto di là da venire, anche perché la questione del Nord Stream è una questione diciamo politica, ma è anche una questione, come dire, che ha a che fare con quello che è un po' la scelta che l'Europa vuole fare dal punto di vista energetico, perché scegliere poi eventualmente di puntare su un gasdotto o su un altro significa intraprendere una direzione di un certo tipo. Va ricordato sicuramente che diciamo negli ultimi consessi europei l'Europa ha fatto chiaramente capire di volersi emancipare energeticamente dalla Russia, anche per evitare diciamo tutto quello che poi è stato la coda di conflitti, tensioni che in questi anni abbiamo visto con l'emergenza, insomma, che sono impattate poi sul continente. Quindi di fatto, come dire, appoggiare un progetto di questo tipo significherebbe andare contro questa idea di voler diversificare le rotte energetiche, tant'è vero che noi come paese più di recente siamo stati particolarmente, siamo scesi in campo con grande forza a favore di tutt'altra rotta, quella verso sud, quella del TAP, che è appunto questo gasdotto che dovrebbe portare il gas dell'Azerbaigian in Italia, e su tracciati completamente diversi rispetto a quelli a cui rinvia il Nord Stream e un eventuale raddoppio del Nord Stream. Quindi è una partita politica molto complicata, e chiaramente la Russia sta cercando di portare quanti più soggetti dalla sua parte per superare le obiezioni, che sono obiezioni molto forti, obiezioni che sono state in grado di bocciare un progetto molto simile con altri tracciati, ma insomma il South Stream è definitivamente tramontato, quindi Putin teme che diciamo, gli stessi ostacoli possano impattare anche su questo gasdotto. Sì, sì, c'è poi il tema appunto che, però a mio avviso ha fatto bene il Presidente del Consiglio, così mi becco le critiche anche oggi, a porre il tema a livello europeo, nel senso che è chiaro che poi tu non puoi far passare il blocco, ho capito che poi l'ENI non ci teneva a fare il South Stream perché aveva dei costi alti, però a livello di principio, se le sanzioni le abbiamo tutti e l'Italia assieme alla Germania è il paese che paga di più per queste sanzioni a livello di valori, noi non esportavamo macchinari ma esportiamo tantissimo lusso alimentare in Russia, e più volte abbiamo spiegato che il mercato russo aveva questa caratteristica di non cercare il falso a differenza di altri mercati o l'Italian sounding, ma voleva il vero, con danni anche che si creano, perché in questo momento è chiaro che banalmente tutta la rete di negozi alimentari, negozi di abbigliamento e anche ristoranti in Russia sta cercando altri canali per un cibo simile a quello italiano o per rimpiazzare altri tipi di prodotti italiani. Mi sembra corretto dire scusate, non è che blocchiamo il gasdotto al sud e poi la Germania per i fatti suoi si fa quello al nord con una partecipazione anche seppur minoritaria, di Austria e Olanda. Torniamo sempre al tema di due pesi e due misure. Poi di Olanda e Austria, che sono sempre quei paesi a chiedere il massimo rispetto del rigore a livello europeo. Comunque, a livello politico, secondo me la mossa dell'Italia è azzeccata. Ringraziare intanto Celestina Dominelli, io resto sul tema dell'energia, ma in questo caso del petrolio e soprattutto delle trivelle. Allora, fermo restando che domani, ripeto, se non occuperà Giovanni Minoli, avrà come ospite lo stesso governatore della Puglia, Emiliano. Oggi il ministro Guidi è intervenuta sulle polemiche sui permessi di ricerca offshore nell'Adriatico. Ha detto il ministro in una nota: c'è un polverone pretestuoso e strumentale, non c'è nessuna trivellazione, non si prevede alcun tipo di perforazione e quei permessi riguardano una zona di mare ben oltre le 12 miglia della costa e anche dalle isole Tremiti, che erano state citate come una delle aree in cui è stata permessa la trivellazione. Però non ci sta il governatore della Puglia. Emiliano dice: le regioni proponenti il referendum non devono fare passi indietro, dovranno elevare subito conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato davanti alla Corte Costituzionale per alcune norme dell'emendamento natalizio che hanno scippato al popolo italiano la possibilità di esprimersi in sede referendaria sul punto di restituire o meno alla conferenza delle regioni il potere di decidere se e dove sia possibile trivellare a fini di ricerca petrolifera. Ascoltiamo le parole di Emiliano. Fermo restando, lo dico così, è un'opinione del tutto personale, chi vi parla ritiene che alcuni temi che sono a cavallo quasi con la politica estera, tra cui l'approvvigionamento energetico, nonché la pianificazione dei trasporti aerei, ma non solo, non debbano essere di pertinenza delle regioni. Mi dispiace, ma se iniziamo a dire che ogni regione decide se o no che politica energetica fare, non si fa politica energetica di un paese, che è ancora, a casa mia, elemento strategico. Il che non vuol dire accettare le trivellazioni in maniera apodittica, cioè senza ragionare, ma dire che le regioni devono essere loro a stabilire se o no si possono fare attività di esplorazione petrolifera o di esplorazione energetica, in ogni caso, mi sembra rinunciare a una politica energetica di carattere nazionale. Comunque, sentiamo Emiliano. Ma andare a cercare il petrolio nell'Adriatico e nello Ionio è una stupidaggine, costa molto di più di quanto rende. Il petrolio che è lì presente, lei ne lo conosce da 50 anni, è di scarsa qualità. Adesso il petrolio peraltro ha un prezzo bassissimo, quindi non giustifica assolutamente i costi della ricerca. Deve essere una di quelle situazioni nelle quali ci si caccia alle volte perché non si vuole parlare, non si vuole trovare una soluzione, e dunque io mi auguro che al più presto il Presidente del Consiglio convochi i Presidenti delle regioni interessate dal referendum e si risolva una volta per tutte questa vicenda, perché altrimenti saremo costretti a fare una battaglia politica durissima. Ecco, avete detto, lei ha detto, ecco, lei ha detto scateneremo l'inferno, che cosa vuol dire? Ma in realtà è una frase giornalistica che io ho trovato sul giornale stamattina. Ecco, quali sono allora i provvedimenti che volete, diciamo, mettere in atto? Impugnare per conflitto di attribuzioni due dei quesiti sui quali la Cassazione non si è proprio pronunciata. Adesso non sto a spiegare la complessità tecnica, ma dei sei quesiti tre dovevano andare via e cadere giustamente grazie all'emendamento che il governo ha fatto approvare la responsabilità. Due appunto sono quelli che secondo me determinano una lesione delle attribuzioni delle regioni, e un quesito è, ringraziando Dio, sopravvissuto miracolosamente, e quella è la seconda cosa che dobbiamo fare: avviare una campagna politica per salvaguardare il nostro mare, la blue economy, tutte le attività economiche legate al mare che nel Mezzogiorno sono centrali e fondamentali, sulle quali ci hanno spinto a investire negli ultimi 20 anni. Oh, allora, vedo già molti messaggi, ma no, io non sto contestando le argomentazioni di Emiliano, a parte il fatto che va bene, ascolteremo anche quelle di chi l'attività di ricerca la fa sempre. Sto solo dicendo che chiedere di restituire alla conferenza delle regioni il potere di decidere se e dove sia possibile trivellare i fini di ricerca petrolifera è un po' come dire che alle regioni deve essere dato il permesso di capire come sviluppare l'attività dei trasporti. Allora, secondo me ci sono dei temi, voi sapete che non sono molto innamorato delle regioni italiane, un po' per quello che raccontiamo ogni venerdì con la classifica, e mi sembra che abbiano solo moltiplicato i costi, ma contrariamente alla vulgata iperfederale di questi vent'anni, alla sbornia del federalismo di questi vent'anni, ma soprattutto perché ci sono in qualunque paese temi che sono di pertinenza nazionale. Il tema della politica estera, il tema dell'approvvigionamento energetico, che è un tema di politica estera, il tema anche dei trasporti, del modello di trasporti che ti dai sul paese, sono temi di carattere nazionale, non regionale, perché le regioni, mettiamole in senso buono, sono troppo vicine agli interessi locali per avere una visione di carattere nazionale. Vediamo se così va bene. Oh, dalla vicenda Nord Stream e poi pugliese delle trivellazioni, restiamo in Puglia per andare a Taranto, dove c'è il nostro Domenico Palmiotti. Buonasera Domenico. Buonasera Sebastiano. Parleremo dell'IVA, anche se oggi le contestazioni più forti si sono avute a Genova. Ti chiedo ancora un minuto di pazienza, o il traffico. Focus Economia. Molti messaggi su quanto appena detto sul tema delle regioni. No, guardate, c'è anche il contrario: delle volte l'interesse nazionale va a discapito di quello regionale. No, non sono d'accordo, e vale anche per la Val di Susa, su cui mi sono personalmente già espresso molte volte. L'interesse nazionale è superiore all'interesse regionale e locale. È ovvio che la sindrome del NIMBY, not in my backyard, non nel mio giardino, ce l'abbiamo tutti. Ma non è che possiamo tenere in ostaggio un paese perché quella comunità, quella regione, non sto entrando nello specifico sulle trivelle, perché a differenza del governatore Emiliano, io non mi ergo conoscitore e esperto di trivellazioni, anche perché immagino che nessuna società petrolifera si metta a trivellare, non è solo il costo della concessione, è quanto ti costa poi mettere in piedi la trivellazione, è così, a caso, perché non ha niente di meglio da fare, perché vuole rompere le scatole ai residenti. Immagino che una, per come conosco io il modo in cui opera una società petrolifera, va a trivellare laddove ha un ragionevole presunzione di poter trovare del petrolio o del gas. Ma detto questo, se il tema è no, l'interesse locale deve essere anche superiore a quello nazionale, non ci siamo proprio. No, l'interesse nazionale è sempre prevalente a quello locale. Mi dispiace per i localismi, tutti noi siamo locali delle volte, però poi l'interesse è quello nazionale del paese. Abbiamo avuto un paese bloccato per anni dal comune, dalla provincia, dalla regione, che pensavano agli interessi elettorali locali e non all'interesse economico nazionale. Domenico Palmiotti, invece, dicevo, oggi ci sono stati i lavoratori dello stabilimento IVA di Cornigliano, e poi ascoltiamo alcune di queste voci, le faccio ascoltare subito, che hanno occupato simbolicamente il cortile di Palazzo Tursi, sia del Comune di Genova, poi hanno occupato anche la sala del municipio di Genova, per chiedere il rispetto dell'accordo del programma del 2005, che prevede il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità di reddito per i dipendenti dell'azienda. Hanno acceso petardi fumogeni, duri gli slogan contro il sindaco Marco Dori e la sua giunta. Hanno partecipato anche delegazioni di lavoratori del porto da parte di Ansaldo Energia, Fincantieri e Selex. Sentiamo alcune delle voci raccolte dal nostro Ferro. Siamo in piazza per far rispettare l'accordo di programma che prevede la garanzia del reddito e dell'occupazione. Il reddito è messo in discussione perché dal 1 gennaio c'è un taglio sui contratti di solidarietà, su iniziative del governo, e non c'è nessun atto che garantisca la corretta copertura economica. E girano voci di emendamenti, ma sono dei pasticci. Ecco, sullo sfondo c'è la questione della vendita di fatto dell'Ilva. Sì, c'è anche quella, è il nono decreto, se il risultato è paragonabile agli otto fatti precedentemente, io direi che siamo di fronte a una confusione massima. Quindi 9 decreti ad oggi sulla questione dell'Ilva fatti dai governi precedenti, e da questo non hanno portato a nessuna soluzione, anzi è ancora più complicata. Ti timore che ci sia un ridimensionamento occupazionale netto? Un ridimensionamento, che anche il timore che possa essere venduta in queste condizioni, perché noi non sappiamo ancora se può essere comprata, essendo per noi le azioni ancora in capo ai vecchi proprietari, di maggioranza e di minoranza. Quindi la situazione è confusa, non c'è chiarezza. Allora, Domenico, vedo ancora, ma se uno Stato fa una politica energetica di cacca e i cittadini devono accettarlo, a cosa servono le regioni? No, mi scusi, ma lei forse non ha capito che lo Stato italiano non è che ci stia dominando. Lei fa parte dello Stato italiano, siamo in una democrazia fino a prova contraria, e se lei vuole protestare, protesta, chiede un referendum, vota a livello anche nazionale. Ho solo detto che non è che la regione sia un antistato e si mette in mezzo a logiche di carattere nazionale, ma vale per tutti i paesi, eh? In America lo chiamano logiche di carattere federale. Poi uno può protestare, indire un referendum, votare, dare dei segnali politici, ma non è che questa contrapposizione delle regioni contro lo Stato, noi siamo più vicini ai cittadini, è una balla colossale, dai, su. Regioni non solo non sono necessariamente più vicine, hanno anche speso peggio delle volte dello Stato quanto a sprechi. Quindi non mi fate parlare troppo, perché non voglio anticipare la rubrica del venerdì. Domenico Palmiotti, che è successo? Perché noi abbiamo visto gli esuberi, o meglio quanto ha indicato l'Ilva come esuberi temporanei e contratti di solidarietà, 3.510 e proroga dei contratti di solidarietà. Domenico. Sì, mentre a Genova si protesta perché la copertura dei contratti di solidarietà si è abbassata nel 2016, a Taranto oggi l'Ilva ha presentato il quadro dei contratti di solidarietà per quest'anno. C'è una notizia positiva, si scende dai 4.070 che erano il tetto massimo dell'anno scorso ai 3.519 di quest'anno. Quando parliamo di tetto massimo bisogna chiarire due cose, che poi questo numero verrà negoziato dalle parti e quindi è un numero che probabilmente può ancora calare. In secondo luogo, 3.500 lavoratori in solidarietà non vanno poi tanti lavoratori effettivamente in solidarietà, perché questo è solo un tetto massimo, tant'è che l'anno scorso rispetto ai 4.000 concordati ne sono andati al massimo in 3.000. E in ogni caso, comunque, anche a Taranto prima o poi sorgerà il problema della copertura della solidarietà, perché i lavoratori di Taranto l'anno scorso hanno percepito una copertura di solidarietà che era pari al 70%. Adesso questa copertura è scesa dal 70% e al 60%. A Taranto non ci sono ancora proteste, però i sindacati hanno già posto all'azienda la necessità di integrare la quota mancante e oggi l'azienda ha detto di no. E hanno fatto appello anche alla regione, al governatore Emiliano, perché provveda lui con fondi regionali a coprire questo 10% che manca. Quindi si vedrà che cosa succederà sul fronte dell'integrazione, perché questo tema che ha scatenato le proteste di oggi a Genova è un tema che prima o poi si riproporrà anche a Taranto, dove i contratti di solidarietà vigenti scadono il 2 marzo. C'è un dato positivo, è che l'azienda oggi ha annunciato una ripresa della produzione, ha detto che in quest'anno vuole produrre 6 milioni di tonnellate contro i 4,8 dell'anno scorso. E questo quindi tu dici attenzione, perché il tema si potrebbe riproporsi anche a Taranto. Certo. Devo dire, vedo ancora molti messaggi dunque, nella zona Puglia il Mediterraneo è stretto ed è in equilibrio delicato. Allora, io non ho detto di sapere se queste rivelazioni sono, ho detto, il mio riferimento era alle dichiarazioni di Emiliano sulla conferenza delle regioni, che deve riprendersi in mano sostanzialmente l'autorizzazione o no, anche su un aspetto di politica energetica che è di carattere nazionale. Dopodiché, se le regioni, nel caso specifico la regione Puglia, è così attenta all'equilibrio del Mediterraneo, e ben fa ad essere attenta, andiamo anche a vedere qual è tutta la politica di carattere energetico di impatto ambientale della regione Puglia, per esempio su quanto si scarica in mare, quindi anche tutto quello che riguarda il trattamento. Adesso, visto che parliamo dell'Ilva, proprio la vicenda dell'Ilva dovrebbe anche portare un po' più di prudenza le regioni, perché nella vicenda dell'Ilva, non voglio tornarvi perché non abbiamo tempo, c'era anche un ruolo, non dico proattivo, ma quantomeno silente, un po' distratto dalla regione Puglia, perché poi tutta la vicenda dell'Ilva scoppia alla fine. Nessuno nella regione Puglia c'era mai accorto dell'Ilva finché l'Ilva era dello Stato. Cos'è? Non inquinava prima quando era dello Stato? Chi dico? Perché sapete, le regioni Poi, allora, i depuratori sono tutti in regola? Andiamo a fare un po' di analisi su questo, perché è troppo comodo sventolare la bandiera delle trivellazioni vicino alle Tremiti per dire dobbiamo riprenderci in mano noi il tema della politica energetica del paese. Io non glielo lascio alle regioni, tanto poco fiducia ho sulla qualità del governo di molte regioni di questo paese che non glielo lascerei mai. Meglio a questo punto che si discuta in ambito nazionale, anche perché il tema dell'approvvigionamento energetico non è un tema che riguarda la regione Puglia piuttosto che la regione Sicilia o la regione Friuli, riguarda il paese in senso lato. Domenico, per concludere, quando è che si saprà, o meglio potremo capire, che tipo di reazione avranno i dipendenti oltre che i sindacati dell'ILVA per quello che riguarda Taranto? Senti, il problema potrebbe scoppiare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Anzitutto dal 15 parte la trattativa con aziende e sindacati che determinerà il numero effettivo del tetto massimo di solidarietà di quest'anno, e poi si sta vedendo se si riesce a ricavare questo 10% mancante di copertura o attraverso emendamenti al decreto legge oppure attraverso un intervento della regione. Volevo solo dirti una notizia, che sì, la procura di Zurigo ha impugnato il provvedimento dei giudici del tribunale di Bellinzona, che hanno detto no al rientro del 1,2 miliardi milioni dei Riva dalla Svizzera in Italia. Erano soldi che dovevano andare all'ambientalizzazione del sito di Taranto. Poi, dietro questo stop dei giudici svizzeri, il governo ha messo mano alla legge di stabilità, è intervenuto sul quindi adesso ti dici che potrebbero rivedere la decisione che aveva bloccato il trasferimento dei beni. Ha impugnato il no dei giudici svizzeri. Bisogna vedere adesso quale sarà lo sviluppo. Non è scontato che l'impugnativa abbia un aspetto, un esito favorevole. Domenico, visto che ti ho qua, un'ultima battuta proprio sul tema delle regioni, visto che domani Emiliano avrà tutto il modo di spiegare le sue ragioni da Giovanni Minoli, domani mattina dalle 9 in poi l'abbiamo fatto ascoltare, non mi sembra che sia sbilanciata contro Emiliano, l'unica voce che abbiamo sentito è quella di Emiliano. Però il fatto che la regione Puglia si sia mai accorta di quello che succedeva all'ILVA non lo dico solo io, Beh, indubbiamente questo è un fatto evidente, adesso, il problema ci sono tante sottovalutazioni, ci sono stati tanti errori, e sicuramente le istituzioni della Puglia, la regione, per tantissimi anni non si è accorta. Indubbiamente l'ILVA di Stato, prima dei Riva, non è che inquinasse meno di quello che si presume che abbiano inquinato i Riva. Va bene, grazie anche a Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto. Dopo il GR24 andremo invece sulla borsa, meno 0,57% la chiusura, ma oggi i casi soprattutto di Monte dei Paschi, meno 11,3% sotto l'euro per azione, e della Cassa di Risparmio di Genova, peggio ancora, meno 13,61%, e poi le speculazioni sull'eventuale abbandono di Mario Greco dalle Generali portano il titolo a perdere il 2,84%, 349. 238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia, poi sul sito di Radio 24 il 349-238-6666 e anche il numero per WhatsApp. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Gira il mondo, gira, e sempre più vorticosamente. Difficile capire tutto quello che accade, ma state tranquilli. A fine giornata vi racconto cos'è successo in Italia e all'estero, con i servizi della redazione e con gli ospiti in diretta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. Focus Economia. 18:06, e continuo, lo dico a chi ci sta scrivendo l'omaggio banalissimo, modestissimo, anche di questo programma, la scomparsa di David Bowie, il Duca Bianco. No, una battuta ancora, poi almeno per oggi la chiudiamo qui sulle trivelle. Io non ho mai detto di essere a favore delle trivelle nell'Adriatico, ho detto solo che sentire Emiliano che si erge a esperto di trivellazioni, boh, immagino che nessuno vada a mettere dei soldi per cercare petrolio o gas laddove non c'è possibilità di trovarlo. Ma ho detto una cosa diversa, ho detto che poi questo verrà valutato. Ma mi fa un esempio un ascoltatore. Allora, in Friuli c'è, se non ricordo male, a Conterviso, quell'autostrada dove passano tutti i camion che arrivano, che vanno verso il centro nord Europa, est Europa, e arrivano dal centro est Europa verso l'Italia. Ora, allora, con la base dello stesso principio, un friulano dovrebbe dire: ma perché mi becco io l'inquinamento che poi serve a tutto il resto d'Italia? Cioè, se noi lasciamo in mano alle regioni elementi di politica strategica come l'approvvigionamento energetico, la politica estera o anche la politica dei trasporti, andiamo nel caos a cui abbiamo visto, a cui abbiamo assistito in questi anni. Faccio notare che la regione Puglia si è persa anche la possibilità di avere un rigassificatore, tutti contenti, per carità. Immagino che siano contenti quelli di era Brindisi, se non ricordo male, il rigassificatore. Tutti quelli che abitano in zona. Poi bisogna capire se siamo contenti noi come italiani nell'avere una dipendenza dal gas o con l'Algeria o attraverso il gas ucraino, cioè tutto qua, perché poi quando c'è la crisi del gas facciamo le puntate sul bisogno dei rigassificatori. Ci sono dei temi che sono troppo importanti per essere lasciati solo alle comunità locali. Mi dispiace, so che va contro la retorica della località, della comunità locale prima di tutto, ma io ragiono da italiano, non da lombardo, veneto, pugliese, friulano o quant'altro. Se no continuiamo a essere una cozzaglia di regioni e mai un paese. Detto questo, andiamo avanti, perché parlavamo di borsa. Meno 0,60% Milano, meno 0,25% Francoforte, meno 0,48% Parigi. Non c'è stato quindi un effetto negativo oggi, perlomeno, della brutta chiusura anche questa mattina delle borse cinesi. C'è stato invece un caso su Milano che riguarda in primo luogo due banche: Monte dei Paschi meno 11,27% a 92 centesimi di euro da un lato, e la Cassa di Risparmio di Genova meno 13,6%. Siccome sono due delle banche che non avevano superato gli stress test, viene chiaro, viene immediato chiedersi che cosa stia capitando. È il minimo storico per il Monte dei Paschi, sospesi ambedue i titoli per eccesso di ribasso. Allora, Marco Fernando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Che sta succedendo? Sarebbe bello saperlo, no? Quello che sta succedendo è un'attenzione crescente sulle banche, questo lo vediamo da tutti i punti di vista, sicuramente la vigilanza e quindi anche di riflesso il mercato che si sta appunto concentrando sulle banche che oggettivamente sono più deboli, non lo diciamo noi. Tu citavi gli stress test ormai di un anno, quasi a mezzo fa. In realtà i due titoli che oggi sono crollati sono quelli delle due banche che di fatto sono ancora emerse come tra le ultime della classe negli ultimi esami condotti nell'autunno scorso, quindi su dati più freschi, sempre dalla Banca Centrale Europea. Ovviamente siamo ormai da due settimane quasi nell'era del bail-in, e quindi evidentemente questo fa sì che eventuali peggioramenti, di cui peraltro non abbiamo le avvisaglie, sulle banche, vedrebbero i costi ripartiti su tutti gli investitori, e questo sicuramente però, fa sì che... Non sfugge a nessuno, Marco, che assistere a delle sospensioni su due titoli che poi comunque, nonostante le sospensioni per eccesso di ribasso, chiudono ai minimi. Meno 11,30% Monte dei Paschi, meno 13,60% la Cassa di Genova. Beh, insomma, il sospetto che o qualcuno sa qualcosa, per essere buoni, o si sia scatenata improvvisamente un'ondata di vendite, di paure, non dico di panico, però sulla base di qualche elemento, nel senso che uno non va a vendere anche questo così perché è lunedì e si vende. Ma è curioso, tra l'altro noi proprio ieri come Sole 24 Ore abbiamo pubblicato la lettera al risparmiatore sul titolo MPS, che è una fotografia direi assolutamente esaustiva di quello che è lo stato di salute di questa banca, che oggettivamente sta cominciando a portare a casa alcuni dei risultati del lungo percorso e anche sofferto di risanamento degli ultimi anni, ma rimane evidentemente con alcuni elementi di debolezza, a partire dalla zavorra pesantissima dei crediti deteriorati. In Italia si sta cercando di mettere in piedi una bad bank, anche oggi abbiamo assistito a un'ennesima dichiarazione ambigua dalla Commissione europea. Il fatto, questa situazione di stallo sicuramente non giova alla banca. Certo, come dicevi tu, oggi la banca capitalizza 4 miliardi e 850 milioni, che è meno dei due aumenti di capitale fatti negli ultimi due anni. Sicuramente una banca sconto, fortissimo sconto, e così anche come Carige, 784 milioni di capitalizzazione di borsa. Quindi sicuramente qualcuno... No, te lo chiedo perché... Molti, vedo i messaggi su WhatsApp e sugli SMS, dicono ma non è che qui stiano iniziando i giochi non tanto per il bail-in, che è un'altra cosa, ma per la riforma delle popolari che dovrà portare a molte fusioni e aggregazioni tra queste banche. Sì, sicuramente ci può essere dietro l'interesse di qualcuno. In realtà qui quando il titolo scende vuol dire che si vende. E quindi sicuramente... Diciamo, poi non dimentichiamo anche l'elemento, tutti gli automatismi che stanno dietro alle contrattazioni di borsa. Tu parlavi, siamo ai minimi storici, quindi quando, per dire, oggi il titolo MPS ha sfondato al ribasso la quota di un euro, e questo fa sì che sicuramente si sono messe in moto ricoperture su valori più bassi, e questo è evidentemente un moltiplicatore del ribasso. Il problema è chi compra, chi può comprare queste banche. In Italia le uniche banche che possono acquistare chi sono? Intesa, Unicredit per certi aspetti, forse per altri no, UBI, che però hanno già detto chiaramente che loro non compreranno. Chi può guardare con interesse a queste banche sono investitori esteri, che però sono probabilmente quegli stessi hedge fund che animano questi movimenti. Quindi è lecito immaginare di tutto. Sicuramente oggi c'è un problema oggettivo di redditività delle banche italiane e quindi di appetibilità, e sicuramente le nuove norme entrate prima sul capitale, poi sul bail-in non aiutano. Sì, faccio notare che il Monte dei Paschi a giugno scorso ha chiuso l'aumento di capitale da 3 miliardi a 1,17 euro per azione. Da allora, insomma, la capitalizzazione della banca si è ridotta di un altro 20%, per cui la situazione non dico che diventi critica, ma sicuramente difficile da questo punto di vista. Staremo a vedere, è importante, se uno non ha notizie non è che può inventarsele, però sicuramente poi domani avremo una controverifica, qualcosa c'è sotto, questo possiamo dirlo, perché un calo così forte non è un calo così da dire beh, ho venduto un po' di Monte dei Paschi perché mi sono riposizionato su altri titoli. E tra l'altro ricordo appunto che Monte dei Paschi mai era sceso sotto l'euro per azione. Però lo dico agli ascoltatori, se non vi sono notizie ufficiali, ma nemmeno ufficiose, nemmeno indiscrezioni, nemmeno voci di, non è che possiamo inventarle, crearle per giustificare l'andamento del titolo. Marco? Sì, indubbiamente questi sono due titoli molto volatili ormai da anni, e la volatilità genera volatilità, questo non dobbiamo dimenticarlo, per cui chi evidentemente vuole fare utili, chi ha un approccio iperspeculativo guarda anzitutto questi titoli qua, quindi sicuramente qualcosa forse c'è dietro, ma forse la soluzione non è così pittoresca, ma più di, come dire, di trading di basso prezzo, sì, e in questo caso in tutti i sensi. Un trading molto forte però, questo dobbiamo dirlo, un trading molto molto forte, c'è cioè un compra delle vendite molto molto pesanti. Grazie intanto a Marco Ferrando, restiamo sulla borsa e lo facciamo con Flavia Carletti di Radio Core, il Sole 24 Ore. Flavia, buonasera. Sì. Flavia, al di là di Monte dei Paschi e Cassa di Risparmio di Genova, oggi altri due titoli, che tra l'altro sono il terzo peggiore dell'S&P MIB, perché c'è Mediaset che perde il 4,38, poi Ferrari meno 3%, Generali meno 2,80%, poi visto che citavamo le banche anche il Banco Popolare perde il 2%, Intesa San Paolo l'1,40%, cali più contenuti per le altre, con Unicredit che guadagna invece lo 0,13%, la Popolare Emilia Romagna più 0,8%, e sostanzialmente lì è UbiBanca, vado in onda di crescita, UbiBanca più 1,1%, Pop Milano più 1,70%. I migliori titoli sono quelli legati al lusso, Ferragamo più 3,20%, Moncler più 1,70%, Campari più 1,12%, in recupero anche Steam Microelectronics dopo il calo forte della settimana scorsa, più 2,42% oggi, Ferrari e Generali. Sì, appunto, sono stati due o tre peggiori titoli al di là delle banche e Ferrari, da quando è stata quotata a Milano, è arrivata quasi a perdere ormai con la chiusura di oggi quasi tra il 9 e il 10% più o meno, e secondo gli analisti, diciamo, non c'è un motivo legato in maniera specifica a Ferrari, perché magari sono uscite notizie negative o c'è stato qualcosa, probabilmente parlano di un aggiustamento sul titolo legato soprattutto al fatto che può esserci una scia rispetto a quello che è successo la settimana scorsa con alcuni fondi obbligazionari che avevano il convertibile di FCA che poi si sono trovati in mano le azioni Ferrari, quindi sono state obbligate a vendere. Questo può avere ingenerato dei movimenti che si stanno trascinando ancora oggi e che quindi hanno provocato ulteriori vendite in una sorta di effetto domino in qualche modo. Invece oggi il settore auto invece nel resto d'Europa era andato in positivo, e appunto anche il settore del lusso, che a cui è associata spesso Ferrari, ha visto dei recuperi, quindi in qualche modo è un po' un andamento che è stato atipico rispetto ai due settori a cui può essere associata. Mentre invece per quanto riguarda Generali, a provocare le vendite sono state ancora queste indiscrezioni rilanciate dalla stampa svizzera ancora nel fine settimana del passaggio di Mario Greco da Generali a Zurich. Zurich non ha più un amministratore delegato e si parla che potrebbe essere, però è stata annunciata le dimissioni e quindi un cambio al vertice. Si parla di possibile anche data del 9 febbraio per proprio formalizzare la nomina di Greco quale CEO di Zurich. Al momento non c'è nessuna conferma, però secondo tutti gli analisti, se dovesse arrivare questa conferma, sarebbe comunque una notizia negativa, perché Greco è stato in grado comunque di rimodellare Generali negli ultimi anni e ha avviato un piano strategico che a questo punto si dovrebbe in caso concludere senza lui alla guida, che è quello che lei ha ideato. Sì, ecco, visto che le Generali sono appunto, se non ricordo male, il secondo gruppo assicurativo a livello europeo e comunque il primo in Italia, visto il ruolo che ha avuto Greco, forse sarebbe il caso anche di avere una comunicazione. Allora, sono prive di ogni fondamento le voci? Uno mi dice, sì, ma magari si sta trattando, non vuole fare ok, che arrivi una comunicazione il prima possibile, cioè lasciare il mercato in balia di queste ipotesi, visto il ruolo che gli viene riconosciuto, quindi è anche in questo caso un merito di Greco in Generali, sarebbe il caso che chiarisse subito la sua posizione: non lascerò mai le Generali finché non porterò a compimento il piano industriale, oppure dicesse qualcos'altro, perché la data del 6 febbraio è vicinissima. Non sono una verginella, lo dico a chi mi iscrive, ho capito che magari se è vero sta trattando, non vuole fare comunicazioni o dichiarazioni, però non si può neanche lasciare il titolo in ballo a indiscrezioni di così alto peso, non so come spiegare. Per quello che riguarda gli altri titoli invece, Ferrari, tu hai già chiarito, Mediaset -4,40%. Mediaset purtroppo non abbiamo avuto, diciamo, riferimenti particolari, è comunque un titolo penalizzato, non è solo oggi che diciamo in cui è stato venduto, però non c'è stato, almeno per quanto abbiamo visto noi dagli operatori o dagli analisti, qualche indicazione in particolare su Mediaset. Telecom invece oggi, alcune agenzie, il titolo alla fine ha un po' ritracciato, adesso sto cercando di capire l'ultima chiusura, ma rispetto all'andamento iniziale Telecom ha chiuso in calo dello 0,40%, è arrivata a guadagnare l'1,5%. Sì, oggi era stato, a un certo punto sembrava che potesse rimbalzare, era arrivato anche a salire del 2,7% nel corso delle contrattazioni, e poi invece alla fine non ce l'ha fatta a mantenere questo andamento positivo, e diciamo, come indicazioni sul titolo venivano dati due focus, ci sono due aspetti che il mercato continua a tenere sotto controllo e che sono, diciamo, i tuoi catalizzatori per l'interesse sul titolo Telecom, che sono: uno è gli sviluppi del mercato brasiliano e uno quello delle torri di Inuit. C'è stato anche un report di oggi proprio che riguardava le TLC europee, in cui si parlava del fatto che dovranno arrivare a una soluzione per Inuit, però in qualche modo i tempi vengono dati da molti dilatati, quindi questo probabilmente non è riuscito a mantenere l'interesse sul titolo, almeno sul breve. Per Inuit si parla di chiusura in qualche modo della cessione del pacchetto di controllo entro il primo semestre, quindi comunque un orizzonte abbastanza ampio, e addirittura per il Brasile la tempistica viene data ancora più dilatata, dopo che proprio dai vertici 10 di Team Brasil, che sì, viene dato appunto un progetto integrazione. Il CEO ha parlato del fatto che comunque serve, prima di avviare qualsiasi discussione sulle alleanze, un cambio di a livello regolatorio proprio del mercato brasiliano. Okay. E poi ci si aspetta ancora una contrazione nel 2016 con la ripresa nel 2017, quindi probabilmente ci sarà un po' più di tempo da aspettare. Peggiori migliori, oltre a Cassa di Sfamio di Genova e Monte dei Paschi, Fiera Milano perde il 9,70, Siteca meno 9,40, Brioschi meno 8,70 e Fincantieri meno 8,60. Migliori, ecco, Santec più 8,80, Ross più 4,70 e poi H-Farm più 4,1%. Grazie a Flavia Carletti. Il traffico, chiedo scusa per il ritardo. Focus Economia. E per ultima abbiamo ottenuto Ziggy Stardust, che se non ricordo male fu l'album che rese celebre a livello mondiale lo scomparso David Bowie, scomparso, si è saputo questa mattina, poco prima delle 8 ore italiana. Allora, andiamo a Detroit per parlare anche di Ferrari. Oggi ho visto Marchionne, non dico nervoso, ma insomma ha detto che schierarsi contro Silicon Valley è un'idiozia, i rapporti con Google e le altre società continueranno. E poi ha detto parlare di reazioni in borsa da cretini, per cui un po' idiota chi si schiera contro Silicon Valley, cretino chi parla delle reazioni in borsa sulla Ferrari. Ora, boh, insomma, certo che non è che un risparmiatore che le ha comprate può essere contento se hai perso il 10% da quando ti sei quotato, cioè una settimana, no? Meno 3%, boh. Inviterei magari a usare altre definizioni. Dice Marchionne, parlare della reazione in borsa di Ferrari quando c'è stato lo scorporo a gennaio e la distribuzione del capitale è da cretini. Comunque, c'è a Detroit, come ogni anno, l'inviato del Sole 24 Ore, Andrea Malana. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Oggi protagonista soprattutto Marchionne, l'ho trovato io un po' nervoso da qui, cioè solo la nostra impressione, perché lui ha poi parlato di un risultato eccezionale nel 2015 con un mercato difficile e si riferiva in realtà più che nervoso era abbastanza tranquillo, anzi, proprio partendo dai conti che sono andati bene nel 2015 e saranno annunciati il 27 gennaio. Secondo me è quello che gli americani chiamano outspoken, cioè oramai da un po' di tempo dice le cose con estrema chiarezza, al limite della rudezza, come la definizione. Sì, non è che fosse introverso, non è che fosse introverso prima, nel senso che fa parte del suo stile. No. Però insomma, adesso, dire che è outspoken adesso, mentre prima. Vabbè, detto ciò, lui ha detto che la Ferrari potrebbe arrivare anche sopra 9.000 unità come produzione. Sì, citato Renzi, è importante togliersi quelli che il premier Matteo Renzi chiama i gufi, e va bene, tutti che ce l'hanno sono sti gufi, e vorrei capire cos'altro ha detto appunto sul prospettive del gruppo Fiat Chrysler e anche un po' di novità su questo salone, vai. Allora, come novità lui ha presentato, anzi i suoi hanno presentato stamattina la Chrysler Pacifica, che è un minivan, un monovolume, insomma l'equivalente di quello che la Renault Espace in Europa. La Chrysler l'ha inventato insieme alla Renault, il segmento di minivan, 30 anni fa. Adesso questo segmento sia negli Stati Uniti che in Europa è un po' in calo, anzi in netto calo. Però Chrysler conta su questa primogenitura, ha rilanciato questo veicolo a 8 posti, appunto con linee più moderne, e soprattutto la novità di oggi è che avrà anche un motore ibrido. Ora, questo è, diciamo, un passo inevitabile, ha detto Marchionne, anche se il manager del DSA è uno di quelli che, non dico ci credono meno in queste nuove tecnologie, ma invita a una maggiore prudenza su scenari apocalittici di trasformazione completa del settore di qui a 20 anni. Dice, l'ibrido lo facciamo, lo dobbiamo fare, e entro pochi anni sarà presente su metà della nostra gamma. Tra l'altro, dopo questo minivan della Chrysler arriverà sulla Maserati e sull'Alfa, in primis sulla Maserati Levante, che dovrebbe essere presentata fra qualche mese. Però appunto dice, stiamo attenti perché nessuno guadagna attualmente, per esempio, ancora vendendo auto elettriche, Tesla. Tesla che non sarà presente a Detroit, perché ho visto che mancheranno la Bentley, Tesla non c'è. sì. Ce ne faremo una ragione. Land Rover, Mini Tesla, e Jaguar. Tesla è andata a Las Vegas al Consumer Electronics Show, dove sono andati anche molti dei concorrenti di FCA, per esempio la Ford. Marchionne ha lanciato un po' una frecciatina oggi dicendo che io non sono uno che va su un palco a Las Vegas a incantare il pubblico con scenari mirabolanti. E quello che è successo due ore dopo, che la Ford ha fatto appena finita una presentazione in cui esalta anche qui non tanto le nuove tecnologie quanto la necessaria integrazione tra il produrre automobili e i servizi di mobilità. È un lavoro che è stato già tentato diverse volte, cioè chi produce auto dovrebbe mettersi anche a, che ne so, affittarle, a sbarcare nelle assicurazioni, a gestire il car sharing, eccetera. Di fronte alla prospettiva di perdere una parte del proprio business, quasi tutti i produttori di auto ovviamente stanno pensando come rimpolparlo con i nuovi servizi, gestendo, diciamo, la, non dico la distribuzione, ma insomma, per capirci. Sì. Esatto. Il dubbio è quanto i clienti e quando saranno disposti a pagare per tutti questi nuovi servizi. Allora, grazie per ora ad Andrea Malani in collegamento con noi da Detroit. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ripeto, domani c'è Emiliano, basta questa cosa delle regioni. L'unica cosa che è inaccettabile è sentire parlare i governatori delle regioni come se le regioni fossero vicine agli interessi veri dei cittadini e lo Stato nazionale fosse uno Stato, diciamo, quasi dominatore e una potenza estera. Anche le regioni si sono fatte influenzare dalle lobby locali o nazionali, non sono più virtuose, non possono dar diciamo, patenti di maggiore interesse rispetto e attenzione alla collettività di quanto non faccia lo Stato nazionale. Con questo chiudiamo e ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.